America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 dall'AIA, Mario Platero. America can't meet our global challenges alone, nor can Europe meet them without America. Barack Obama è in Europa, è arrivato questa mattina ad Amsterdam, un viaggio europeo che doveva essere per la distensione, per il disarmo nucleare, per creare aperture commerciali con Bruxelles, si è trasformato in un viaggio politico chiave, un viaggio politico difficile. La crisi ucraina continua, il braccio di ferro con Mosca non accenna a chiudersi, gli sviluppi più recenti sul piano politico-militare danno forza, secondo me, alla linea dell'Occidente, fermezza nei confronti di Mosca con le sanzioni, ma no all'escalation militare. E qui all'AIA ci sono 58 leader mondiali, pensate, ci sono addirittura 5.000 funzionari che partecipano ai lavori, 3.000 giornalisti, e non c'è dubbio che nelle riunioni plenarie ci saranno scintille. Dico questo perché molti in America chiedono di mostrare i muscoli, dicono che Obama è debole, che l'Europa è debole, che bisogna reagire, che la Russia ne approfitterà, e dunque si chiede una linea durissima, addirittura con una risposta minacciosa ai confini con la Russia. Però insomma, secondo me Mosca non chiede altro se non una scusa per poter proseguire nei suoi piani di annessioni magari di altre regioni dell'Ucraina, o chissà, magari di altre regioni dei paesi baltici dove ci sono popolazioni russe. Per cui vi faccio un esempio: il ritiro delle truppe ucraine dalla Crimea, deciso la settimana scorsa, non è stata una dimostrazione di debolezza, ma ha segnato una svolta, perché di fatto si è riconosciuto dal punto di vista pratico che la penisola torna alla Russia, cosa che ormai sapevamo, era scontata anche ben prima del referendum. Sappiamo che il 70% della popolazione russa, sappiamo la storia, e così via, così via. Però, e cosa succede? Che in questo modo si restituisce la Crimea, però diventa chiaro che il resto dell'Ucraina resta dell'Europa. Se ci fosse stata una linea dura, senza cedimenti da parte di Kiev sulla Crimea, o senza cedimenti da parte dell'Europa, o addirittura con un'escalation, e chi ci dice che la Russia non avrebbe approfittato per continuare nella sua marcia? Allora a quel punto che succedeva? Andavamo a reagire all'escalation militare russa con un'escalation militare europea o della NATO? Insomma, secondo me sarebbero state follie. Per questo la linea di Obama credo che pagherà nel medio termine. Le sanzioni servono, forse porteranno qualche danno economico anche all'Europa, ma credo che sia l'Europa che l'America possono attendere. Ma vediamo come procede questo viaggio europeo di Obama. Intanto questa mattina c'è stato un bilaterale con le autorità olandesi, questa sera ci sarà una cena offerta dal re d'Olanda, insomma prima tappa olandese, seconda tappa Bruxelles, quindi tappa europea, terza tappa Roma. Ecco, qui c'è un punto interessante: era stato costruito questo viaggio proprio per vedere altri paesi, non si passa dalla Germania, la Germania resta un paese che ha un rapporto difficile con gli Stati Uniti, soprattutto per le differenze sull'impostazione da dare alle scelte per la crescita economica. Ecco, tutto questo che era, come dire, in testa all'agenda quando si organizzava questo viaggio già 6-8 mesi fa, a questo punto passa in secondo piano. Obama cerca qui di coagulare l'alleanza, il viaggio, come dicevo, è più politico che militare. E infatti un'ora fa c'è stato un bilaterale con la Cina, Obama e Xi Jinping hanno avuto un incontro importante, perché la Cina si trova in una posizione difficile, perché ha dei suoi problemi interni. Da una parte vuole avere il diritto di riprendersi i territori, come ha fatto la Russia per esempio nel contenzioso con il Giappone per l'arcipelago delle Senkaku. Però dall'altra non può consentire che si affermi il diritto di chiunque di rivendicare autonomia, di annettere territori, perché insomma ha delle forze centrifughe non da poco in varie regioni. Soprattutto la Cina non può dare spazio alle rivendicazioni separatiste dello Xinjiang a nord-ovest, che è anche chiamato Turkmenistan orientale, e dunque lì il parallelo con la Crimea non piace per niente. Così insieme Obama e Xi Jinping hanno ribadito l'importanza di tutelare il diritto internazionale. Fra un'ora parte il vertice per il disarmo nucleare. In serata il G7. Questa sera ci sarà un G7, quindi un messaggio simbolico forte, perché il G7 era diventato G8. Sul piano politico il G7 era diventato un G8. La Russia viene esclusa, il processo di isolamento continua. E da questi due giorni sapremo se la distensione è possibile o se torneremo, se questa atmosfera asfissiante di cui parlavo prima, la guerra fredda, ce la terremo per qualche tempo. Bene, continuiamo col viaggio. Domani Obama sarà ancora qui all'AIA, il vertice andrà avanti, poi subito dopo nel pomeriggio va a Bruxelles. E pensate, è la prima volta che Barack Obama fa tappa a Bruxelles. Ogni volta, sono passati 6 anni dall'avvio della sua presidenza, eppure ogni volta che è venuto in Europa è andato sempre nelle capitali, è andato nei vari stati nazionali, come dire, quasi a significare che in effetti l'Europa è un'Europa di stati nazionali, non è un'Europa unita come vorrebbe l'America. Il messaggio qui è molto forte: l'Europa prevale sugli stati nazionali, ma si parlerà di economia, si parlerà di negoziato per l'area transatlantica del libero scambio, ci saranno vertici con tutti i leader europei. Di nuovo, a seconda di come saranno andate le cose all'AIA, la Russia, l'Ucraina, le tensioni est-ovest torneranno a giocare un ruolo forte. Mercoledì sera Obama arriva a Roma, arriverà in serata, poi venerdì partirà per l'Arabia Saudita. Come sarà strutturato il viaggio di Obama a Roma? Subito, in prima mattinata, quello che è l'incontro, quello che doveva essere l'incontro più importante di questo viaggio, prima di questa crisi con la Russia, e cioè il primo incontro tra Barack Obama e Papa Francesco. I due sicuramente troveranno modo di avere punti comuni, grandi foto. In America si parlerà probabilmente solo di quello, non della tappa italiana, perché poi subito dopo colazione al Quirinale con Giorgio Napolitano, anche un incontro a due fra il presidente italiano e il presidente americano, una mezz'ora in tête à tête. Nel pomeriggio incontro con Matteo Renzi a Villa Madama, e la prima visita di un presidente americano a Roma. Poi un momento privato, visita al Colosseo, e la serata, una serata tutta romana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee, vi rimando a america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Siamo in atmosfera di guerra fredda e dunque andiamo a rivedere i vecchi film degli anni 70, 007, From Russia with Love. From Russia with love, I fly to you. Much wiser since my goodbye to you. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.